24 mattino. Ed eccoci qui ancora in versione festiva anche noi, ma è l'ultimo giorno per questo 24 mattino spostato un po' più avanti nella mattinata in queste giornate festive. Da domani torna l'orario normale, torna Alessandro Milan, ma tant'è, come abbiamo detto in tutti questi giorni, ci siamo qui puntuali per raccontarvi quel che accade anche in queste giornate festive, anche in quest'ultima giornata festiva. Buon 6 gennaio a tutti da Anna Migliorati. Che programmi avete per oggi? Ancora festa? Siete magari ancora a casa dal lavoro, ancora in vacanza o in qualche città d'arte? Attenzione se volete visitare qualche museo, perché potreste ritrovarvi come le centinaia di turisti che il 1° di gennaio a Firenze si sono messi in coda per visitare gli Uffizi, ma sono rimasti fuori con il museo chiuso e tutta la solita valanga di polemiche. Il 1° gennaio erano chiuse anche la Pinacoteca di Brera e il Colosseo, erano aperte la Reggia di Caserta e gli scavi di Pompei, ma attenzione, su 610 musei italiani 258 erano aperti. Oggi è il 6 gennaio, controllate perché qualcosa chiuderà i battenti anche oggi. Gli Uffizi però, ve lo diciamo, questa volta sono aperti. Il problema qual è? Tutti i giorni dell'anno, 365 giorni l'anno, i musei italiani devono rimanere aperti. Quando chiudere durante le festività? Che succede nel resto del mondo? A Parigi il Louvre è rimasto chiuso il giorno di Capodanno e il giorno di Natale, così come la National Gallery di Londra, il Prado di Madrid. Il MoMA di New York è stato visitabile il 1° giorno del 2014, ma non il 25 dicembre. E allora perché da noi è polemica? Perché per noi i beni culturali dovrebbero essere una delle risorse per il rilancio in questo 2014? Meglio fare entrare i visitatori o meglio chiudere? Le risorse ci sono i guardiani, insomma. C'è molto di cui discutere, quanto anche c'è da dire. I privati in tutto questo discorso c'entrano. Allora, noi vogliamo discutere di tutto questo anche con voi questa mattina. Io vi ricordo come sempre il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666. Il numero verde per intervenire è sempre lo stesso, 800-24-00-24. Ma saluto anche i primi ospiti di questo 6 gennaio. Allora, buongiorno a Salvatore Carruba, giornalista, scrittore, anche un nostro conduttore del programma Ma un libro tira l'altro. Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno a tutti. Che tra l'altro con queste questioni si è anche misurato direttamente, perché oltre a insegnare politiche per la cultura è stato assessore alla cultura nella giunta Albertini al Comune di Milano. E saluto anche un altro amministratore in qualche modo di un luogo d'arte, il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio. Buongiorno. Buongiorno, salve, buongiorno a voi. Allora, Salvatore Carruba, perché tanta polemica? Cominciamo da qui. Tutti i giorni dell'anno devono essere aperti i nostri musei? Ma io non credo, e gli esperti dicono che anche i musei ogni tanto hanno bisogno di restaurare qualche ora al giorno e qualche giorno alla settimana, e infatti in tutti i musei del mondo è prevista una chiusura settimanale ed è prevista la chiusura in alcuni giorni dell'anno, come tu stesso hai ricordato all'inizio. Credo che da noi scoppino le polemiche perché, siccome quel settore, come tanti altri, è considerato un settore in crisi, se non allo sbando, in cui c'è problematica, ci sono molte problematiche legate alle carenze dei custodi eccetera, tutto si amplifica per diventare una polemica. Sinceramente il fatto che il giorno di Capodanno alcuni musei si chiudano a me non scandalizza, scandalizza il fatto che tutti i giorni dell'anno alcuni grandi musei... Quel che succede negli altri 364 aperti. Magari. Esatto, negli altri 364 giorni per esempio alcuni musei debbono chiudere delle sale importanti perché non ci sono i custodi, questo è lo scandalo vero e dimostra il fatto che effettivamente c'è una carenza di custodi, una carenza di mezzi, che è uno dei temi, anzi forse è il tema principale che dovrebbe imporre una rivisitazione, un ripensamento delle politiche culturali e in particolare delle politiche museali. Venerdì è rimasto chiuso è la Reggia di Caserta, non c'entravano la questione dei custodi, non c'entrava la questione dei festivi, ma forse c'entravano altre questioni, gli investimenti che mancano, sindaco. Che è successo venerdì a Caserta? Allora, sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, forse qualche problema sulla linea, sindaco c'è? No, lo ritroviamo tra pochissimo. Allora, io però, parlavi tu di questione di Salvatore Carruba, di custodi che ci sono o non ci sono. Ci sono state anche delle storie veramente al limite dell'incredibile in queste feste, come spesso accade peraltro, perché passiamo da situazioni nelle quali, come al Museo Andersen di Roma, addirittura la direttrice Matilde Amaturo dal 15 dicembre ha lavorato tutti i giorni come custode per sopperire alla mancanza di persone, a casi limiti come la Sicilia, dove per questo 2014 i musei chiuderanno la domenica fino ad aprile, e parliamo anche di gioielli come i parchi archeologici di Agrigento, Segesta, Selinunte, teatri antichi come Taormina e Siracusa. Eppure qui i custodi ci sono, ma hanno chiesto tutti la festività la domenica. Siamo un po' al paese dei paradossi. Innanzitutto due commenti sul primo episodio, quello del Museo Andersen, a dimostrazione del fatto che nell'amministrazione pubblica ci sono dei lavoratori, dei funzionari di primo ordine che si danno da fare e si sacrificano anche personalmente, quindi non si possa fare di ogni erba un fascio e dire che sono tutti lazzaroni, tanto per cominciare. Questo è un atteggiamento che dovrebbe cambiare anche da parte dei consumatori e degli utenti. Per quanto riguarda la Sicilia, lì il caso è ancora più interessante, nel senso che la Sicilia gode di un'autonomia straordinaria nel campo della gestione dei musei, li gestisce direttamente la regione, quindi questo pone anche il problema, questo episodio che tu hai citato, pone anche il problema dell'autonomia che spesso si invoca anche a livello regionale per la gestione dei beni culturali, perché l'esempio siciliano purtroppo non funziona granché, abbiamo un esercito di custodi museali e musei spesso chiusi e musei e aree archeologiche spesso chiuse. Ci ha chiamato una nostra ascoltatrice, Donatella da Roma, si definisce ex direttrice di museo, sentiamo cosa ha da raccontarci. Buongiorno. Buongiorno, non mi definisco. Ecco, le chiedo subito di quale museo. Ho diretto per molti anni il Museo Nazionale d'Arte Orientale di Roma, che adesso è intitolato da alcuni anni a Giuseppe Tucci, e dove approfitto di questo spazio per dire che per ora c'è un'interessantissima mostra sul Teatro delle Ombre e le marionette orientali della collezione di Maria Signorelli. E mi sono sentita spinta a telefonare, io sono una fedele ascoltatrice di Radio 24 da molti anni, anzi direi che è l'unica radio che ascolto con costanza. Com'è lavorare in un museo? Sono davvero questi i problemi? Ecco, no, devo dire che non ho notato in nessun giornale, in nessuna comunicazione radiofonica, l'affermazione di una semplicissima regola che da sempre, da moltissimo tempo, i giorni di legge di chiusura dei musei sono 3 nell'anno, cioè il 25 dicembre, il 1 gennaio e il 1 maggio. È stato da sempre stabilito questi giorni in quanto sono state considerate festività. Ma quindi lei dice la gente che non lo sa? Mi scusi, in modo che per una volta i custodi possano fare queste festività importanti insieme ai loro familiari. Ecco, poi, io però le faccio una così, l'avvocato del diavolo. È vero, ha ragione, però come diceva Salvatore Carruba è anche uno dei pilastri su cui si dice dobbiamo ripartire. Lei Radio 24 l'ha accesa in quei giorni, noi eravamo qui. Io volevo dirle, poi da qualche anno si sono fatti dei progetti speciali che coinvolgono alcuni musei, si è cominciato col 1 maggio, ora vedrà che quasi sempre il 1 maggio i musei sono aperti, e quest'anno anche con il 25 dicembre e il 1 gennaio. In un orario, per esempio il Museo Nazionale d'Arte Orientale è stato aperto in quei giorni di mattina. Però voglio dire, è possibile che il turista in una città come Roma o come Firenze, che ha tante proposte di chiese, di strade, voglia andare proprio lì, lei dice. Proprio quel giorno lì. Andare al museo, allora, non può andarci lì domani o il giorno prima. Certo, anche questa è una posizione. Sindaco di Caserta, l'abbiamo ritrovato, Pio del Gaudio, buongiorno. Buongiorno, salve. Allora, c'è motivo di polemica? L'ascoltatrice ci diceva, beh, insomma, quei giorni si va da altrove, c'è altro nel nostro paese. Ma la polemica non è tanto e solo relativamente alle chiusure o alle aperture, ma è alla gestione, che purtroppo nel nostro paese è una gestione complicata, gravata da oneri probabilmente insopportabili, e nel caso specifico della Reggia di Caserta legata a un non dialogo fra la sovrintendenza regionale e provinciale, quindi quella che gestisce la Reggia, e l'amministrazione comunale. Allora, sindaco di Caserta, raccontiamola, sì, anche la storia di quel che è, sì, successo, sì, perché si parla ormai da mesi delle necessità di restaurare, di intervenire nella, sì, Reggia di Caserta, e che è successo? Che davanti però alla Reggia di Caserta è comparso all'improvviso, sì, un corno rosso. Sì, lo spiego. Allora, in effetti il discorso è questo, il corno è relativo, è un'opera d'arte, c'è stato un finanziamento che abbiamo avuto dalla regione, e in un momento di disperazione, o meglio di esasperazione, ho deciso di installare quel corno che non doveva essere installato lì all'esterno della Reggia. Perché questo? Perché non abbiamo risposte dal funzionariato del Ministero, mentre il Ministro è un'ottima persona col quale si riesce a dialogare, a programmare attività e quant'altro, poi le risorse che arrivano, eccetera, i bandi si interrompono quando si tratta di mettere in campo attività, quindi gare d'appalto che durano una vita, noi abbiamo la nostra Reggia incerottata con impalcature e quant'altro, per cui ho messo il corno proprio per porre l'attenzione Reggia sulla Reggia in tutto, in modo deflagrante, così è stato, e da allora chiaramente tutti si sono posti il problema Reggia di Caserta, tutti si sono rimboccati le maniche, e questo è sintomatico del fatto che molto spesso noi amministratori sappiamo di avere sui nostri territori dei gioiellini, nel caso specifico la Reggia, io la definisco la nostra Fiat perché non ci sono più le grandi fabbriche nei nostri territori, sappiamo, ecco, che possono, la nostra Fiat, la nostra Fiat, la nostra ricchezza. Allora, un ascoltatore ci scrive al 349-238-6666. I musei e luoghi d'arte devono essere aperti nei giorni festivi. Una risorsa turistica deve essere fruibile quando ci sono i turisti. Salvatore Carruba, sei d'accordo? Ma sì, sono d'accordo, ma ripeto, i musei sono in grandissima parte tutti aperti nei giorni festivi, come ricordava la direttrice del museo Tucci, e avviene così, si parla di 3 giorni di chiusura, e ripeto, in tutti i musei del mondo si chiude un giorno alla settimana perché c'è bisogno di fare delle pulizie, dei lavori straordinari sulle opere, quindi questo non mi scandalizza. Il problema è che, come dice il sindaco, i musei devono essere poi straordinariamente ben tenuti, e purtroppo non lo sono, e devono essere tutti aperti. Noi abbiamo fatto una battaglia per decenni per avere Palazzo Barberini, togliere il circolo ufficiale e dare quelle sale al Museo Nazionale. Oggi quelle sale ci sono ma sono chiuse, allora era meglio tenersi il circolo ufficiale, tanto per essere chiari. Questo è lo scandalo vero, non è il fatto che il lunedì i musei chiudano come in tutto il mondo, o che il giorno di Natale i custodi possono fare Natale con le loro famiglie. Questo non mi scandalizza affatto. Allora, molto meglio dare ai privati seri tutto ciò che è arte o antichità, o tutto finirà a scatafascio. E questo è un altro capitolo quando si parla di queste questioni. Scrive sempre il nostro ascoltatore al 349-238-6666. C'è un altro ascoltatore che ci ha chiamato, Giuseppe dalla provincia di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Io ho svolto attività sindacale, anche se un po' anomala, nel senso sono stato un pubblico dipendente, adesso sono imprenditore, ma sono stato pubblico dipendente e mi sono accorto che i dipendenti del pubblico impiego, come dei musei, della pubblica istruzione, eccetera, eccetera, quando svolgono la loro attività, lo dico da ex attivista sindacale, insomma, sindacalista, comunque non vedevano il posto di lavoro come una cosa pubblica e propria, ma è una cosa estranea. Una cosa estranea, cioè a me non interessa, io faccio le mie 8 ore, vado a casa, da quel momento in poi io non ti conosco. Ecco, questa mentalità occorre superarla. Nei contratti, a mio modestissimo parere, occorre inserire. Quindi lei dice non c'è primo gennaio o primo maggio che tenga, se una cosa deve essere valorizzata deve essere comunque valorizzata? Perfetto, perfetto. Tenga conto che io ho fatto l'infermiere, facevo l'infermiere, per cui non c'erano primo gennaio, primo maggio, non c'era niente, cioè quando c'era il mio turno si faceva e sono convinto che sia così. Allora, eppure casi ve ne abbiamo raccontati. Vi abbiamo raccontato della direttrice del museo Andersen di Roma. È un caso che non è stato l'unico, perché c'è stato anche il direttore del museo Mario Prats, sempre a Roma, che è stato anche lui 12 ore al giorno, ha scritto in una lettera al Corriere della Sera, tra domeniche festive e giorni feriali, per mantenere aperto al pubblico il museo che dirige. Un impegno che nessuno può ragionevolmente chiedermi, ha scritto in questa lettera, ma che volontariamente mi sobbarco per vocazione, perché questo è il mio museo. C'è anche questo. Allora, aprire ai privati, la vocazione di chi lavora per il pubblico, ma da privato, qual è la soluzione? Dove svoltare in questo 2014? Una piccola pausa, poi vi racconteremo altre storie. 24 mattino. L'anno della svolta per i beni culturali, per i musei, per quello che viene definito il grande patrimonio non sfruttato dell'Italia. Salvatore Carruba, che ne pensi? Ma io lo spero sicuramente, nel senso che credo che ci sia una sensibilità sempre crescente, che come si diceva prima la cultura sia uno dei volani di sviluppo del nostro paese, e quindi anche da un punto di vista economico oltre che civile sia importante il rilancio di quel settore. Speriamo che si facciano le cose giuste. Le cose giuste sono a partire da questi temi qui, cioè dal tema effettivamente della fruibilità della gestione dei musei, nel senso che le risorse che oggi vanno ai musei, parliamo dei musei pubblici, dei musei statali e comunali, diventano sempre più, si assottigliano sempre di più, e questo è una questione che non permette di rilanciare questo settore. È vero che, probabilmente ne parleremo dopo, ci sono ipotesi di ingresso dei privati eccetera, ma non illudiamoci che i privati da soli possano gestire il settore dei musei, perché di nuovo in nessun paese del mondo i grandi musei sono gestiti dai privati, sono favorite forme di collaborazione con i privati, ma certamente Non è lì tutta la ricetta. Non è lì tutta la ricetta. E poi, come diceva l'ascoltatore di poco fa, la questione delle rigidità sindacali è un tema importante. Quello sì, non ripeto, quello mi scandalizza più della chiusura il giorno di Natale, nonostante tutto. Eppure dei privati si parla, e si parla come una delle chiavi di volta, almeno per il possibile. Allora io saluto Massimo Cacciari. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo invitato perché ricorderete qualche anno fa che polemica, ma veramente polemica, suscitò il Ponte dei Sospiri, chiuso da un involucro pubblicitario, perché per avere i soldi per poterlo rimettere a nuovo. Allora successe che una pietra ornamentale si staccò dalla facciata di Palazzo Ducale sfiorando un turista, ovviamente polemiche, discussioni, quant'altro. Oggi è tornato al suo splendore. Molti anni dopo, fu un'operazione vincente, Cacciari? Beh, è ovvio, soltanto un assoluto cretinismo poteva polemizzare contro quell'intervento. In tutto il mondo grandi interventi di restauro sono anche sponsorizzati. Lo scandalo italiano è che per restaurare quella cosuccia da nulla che è il Palazzo Ducale è necessario, non è un integrativo o opzionale, è assolutamente necessario ricorrere a interventi privati, perché lo Stato non ha una lira per restaurare e per conservare il proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico, eccetera, eccetera. Quindi non è che sia una cosa su cui si può scegliere, è una via assolutamente necessaria e inevitabile nel nostro Paese. quindi c'è poco da discutere, voglio dire, appunto ripeto, soltanto dei perfetti idioti possono polemizzare. Eppure sono stati gli stessi probabilmente che solo qualche mese fa, quando si parlò anche del Colosseo, cominciò un'altra... Sì, ma il grembo dei cretini è sempre fecondo. e anche al Colosseo in queste ore si lavora anche qui sponsorizzati da un privato, e probabilmente verso febbraio-marzo come si cominceranno a vedere i risultati. Privati che però qualche problema lo pongono. C'è una polemica, l'ennesima, che sta arrivando a Roma proprio in questi giorni, e sono notizie di stampa di queste ore, perché i magistrati della sezione di controllo della Corte dei Conti del Lazio all'improvviso, dopo 10 anni che questo accordo è stato siglato, hanno scoperto che di quanto si paga dei 12 euro di biglietto d'ingresso, ad esempio per il Colosseo, il 70% finisce nelle casse del gruppo Mondadori attraverso la controllata Elekta. Altrettanto succede per quanto riguarda una visita, ad esempio, al Palazzo Venezia. Anche qui ci sono dei privati: sui 10 euro pagati da ogni visitatore, al Polo Museale della città di Roma entrano solo 2,25 euro. Come dicevi, Salvatore Carruba, privati sì, ma attenzione. A fare le regole chiare, qui poi ci sono privati e privati, nel senso che qui stiamo parlando di operatori privati che intervengono per fare business in una operazione nella gestione dei beni culturali, non c'è nulla di scandaloso e così avviene in tutto il mondo. Poi che l'alaggio sia alto sia basso, questo devono essere le sovrintendenze, mi pare di ricordare, che devono stabilire al momento in cui si fanno i contratti di fare delle regole chiare e plausibili. Non dimentichiamoci, questo mi pare uno scandalo ancora peggiore, il fatto che tutti i bandi emanati negli ultimi anni per poter aprire o poter confermare molti di questi servizi privati sono stati bloccati per 6, 7, 8 anni, come ha puntualmente denunciato il Sole 24 Ore in questi anni, perché i bandi erano fatti male e bastava un ricorso per bloccare qualunque cosa, e questo ha consentito di perpetuare tra l'altro la gestione che era già in corso. Quindi di nuovo si tratta di fare le cose per bene senza farsi soffocare dalla burocrazia, cosa che purtroppo avviene, questo inviluppo burocratico non riesce a portare i risultati e blocca qualunque tentativo di allargare la platea degli operatori, che è indispensabile allargare, come ricordava poco fa il professor Cacciari. Sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, dopo il corno davanti alla Reggia, metterebbe un cartellone pubblicitario se le finanziassero il restauro? Ma sicuramente, chiaramente le regole vanno sempre rispettate, però anche nei giorni scorsi alcuni beni monumentali in Inghilterra, parliamo del Parlamento e altre strutture sottoposte ai vincoli UNESCO, sono state aperte a privati in senso lato, quindi a visite di persone che quindi portano risorse e quant'altro. Da noi il vincolo UNESCO è considerato come un vincolo insormontabile. Io allargherei il ragionamento, cioè non è solo la fruibilità del museo che interessa, ma quello che c'è come indotto, nel senso che quando un picco pallino viene a visitare la Reggia di Caserta, poi casomai rimane a Caserta, dorme, mangia. E lei diceva qualcosa. Questa è la nostra Fiat, dobbiamo salvaguardarla. E questa è la nostra Fiat, cioè noi abbiamo perso da 1.200.000 persone nel 98 a 500.000 persone adesso. Il problema è che i biglietti sono cari, perché non è solo il problema delle aperture, perché molto spesso i musei quando sono aperti al 20%, al 30%. Allora il sistema non va, e non va in tutto il paese, per tutta una serie di motivazioni. Sono d'accordo con il signore che diceva prima che nemmeno i dipendenti, purtroppo pubblici all'interno dei musei, a volte lo fanno con grande amore, anche se indubbiamente forse sono una minoranza. Il problema poi è anche più grande, perché il posto pubblico oggi dovrebbe essere considerato una sorta di bingo, di superenalotto, molto spesso non lo è. Allora io dico, il problema esiste, dobbiamo per forza far intervenire i privati chiaramente devono intervenire nel rispetto delle regole, ma i musei devono essere il motore dell'economia dei territori nei quali Massimo Cacciari è la nostra Fiat, come diceva il sindaco di Caserta, il nostro patrimonio culturale artistico? Sì, ma ma non è che sia il patrimonio in sé, è tutta un settore che deve essere valorizzato e integrato. Non vendi soltanto il biglietto del museo, devi vendere l'ambiente, devi vendere una capacità ricettiva di alta qualità, di ristorazione, è tutta una filiera che devi sapere attrezzare, integrare e poi anche offrire sul mercato in modo intelligente e integrato. Invece qui si pubblicizza una cosa, l'altra, non si pubblicizza mai, non si offre mai, non si rappresenta mai il paese nel suo insieme. E anche per esempio, non so, io conosco molto bene, come il sindaco saprà, proprio la sua zona di Caserta, il casertano, eccetera. Ci sono delle cose di eccezionale valore che sono rappresentate a spot. Allora c'è Sant'Angelo in Formis, ma non c'è nessun collegamento con la Reggia. Dalla Reggia non pubblicizzano Sant'Angelo, da Sant'Angelo non pubblicizzano Santa Maria Capua Vetere, dove c'è un foro bello come Colosseo. Ognuno il suo orticello. Eccetera, eccetera, ognuno il suo orticello, capisce? Cioè non si vende l'insieme. Si deve fare sistema, cucina, è un po' questo cultura, il messaggio. Si deve fare sistema. Ma dobbiamo fare sistema, non puoi vendere soltanto un bene monumentale, culturale, artistico, architettonico e poi in quel territorio non c'è paesaggio, non c'è cucina, non c'è spettacolo, non c'è cultura, non ci sono trasporti, non ci sono infrastrutture. È impossibile valorizzare questa miniera a cielo aperto che abbiamo se non la intendiamo appunto come un sistema integrato. E questo lo Stato, questo dovrebbe essere il compito principale appunto di una politica in questo settore da parte dello Stato, che manca totalmente, come manca per le politiche industriali. Cioè è un paese che da 30 anni non c'ha politica da nessuna parte, quindi cosa vuole discutere? Le faccio, allora, il sindaco di Caserta prima citava il caso di Londra. Cosa è successo a Londra in questi giorni? Che è stato messo in affitto la sede del Parlamento. Westminster, la sede del Parlamento inglese e non solo le aree periferiche, aperta alle feste private. Una decisione presa per raccogliere i fondi necessari al restauro e presa bipartisan, opposizione e maggioranza hanno votato insieme, tutti contenti, bisogna raccimolare 2 o 3 milioni di sterline all'anno per risistemare gli arredamenti e alcune sale e quindi si apre, ognuno ne faccia quello che vuole, le sale sono in affitto. Che succederebbe, Cacciari, se una cosa del genere accadesse in Italia? I cretini di qui sopra protesterebbero, insorgerebbero, eccetera eccetera, no? I falsi conservatori, i falsi tutelanti, che poi appunto nella condizione del nostro paese non tutelerebbero niente, perché senza questi interventi, che a volte possono essere anche pesantini, non lo nego, non riusciresti nemmeno a fare quei restauri assolutamente necessari come quelli di cui prima si parlava per Palazzo Ducale o per il Colosseo. E quindi non c'è niente da fare, cioè vi è uno, ma ripeto, appunto anche in Inghilterra lo fanno, cioè non sono più cose che dovrebbero neppure essere discusse, si dovrebbero discutere le regole, i metodi, le metodologie di intervento, ma non il fatto dell'intervento che si debba privato, intervenire. In Italia è assolutamente insufficiente, anche perché appunto c'è un regime fiscale che disincentiva l'intervento del privato. Ci sono cambiate tutte una serie di istituzioni culturali, biennali, gli enti lirici, eccetera, per incentivare l'ingresso dei privati, con risultati pressoché nulli. Ma perché? Ma perché se non c'è un regime fiscale tipo quello inglese, tipo quello americano? E torniamo alla politica di quello che dicevamo prima della nostra Fiat, ma che ne facciamo? C'è il traffico, restate con noi perché ci sono altri ascoltatori pronti a intervenire all'800 24 00 24. Ci sono altre questioni da affrontare, ne parliamo tra poco. 24 mattino. Attenzione, attenzione, se se in questo giorno di festa volete visitare un museo, siete in una città d'arte, attenzione, perché ricordatevi, non tutti i giorni dell'anno i musei sono aperti. In tempi di crisi, viaggi low cost e permanenze sempre più ridotte in termini di giorni, spesso si riduce a un solo giorno e quindi è auspicabile che tutti i musei siano sempre aperti. Ci scrive un nostro ascoltatore Luigi al 349-238-6666. Ci ha chiamato Mauro Pica, presidente Assoviaggi Confesercenti di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, che ne pensa? Ma penso che in questo ragionamento Cacciari abbia perfettamente ragione. Il problema in Italia, come spesso capita, è che ci sono troppe voci che parlano comprendendo bene qual è il problema del turismo in Italia, e molto spesso la cultura e il turismo si parlano molto poco, e questo dovrebbe cambiare e avere un'unica linea univoca. Io vorrei ricordare soltanto una cosa, c'è anche il sindaco di Caserta, io sono stato a Caserta a visitare la Reggia, spero che le cose siano cambiate, ma è un souk, specialmente il 1° maggio, pieno di venditori ambulanti, con i giardini della Reggia invasi da famiglie che giocavano a pallone. Ora, io spero che queste cose siano cambiate, ma sicuramente non diamo una buona immagine. Non è soltanto il problema dell'apertura e della chiusura, è così come l'area del Colosseo. Allora, sindaco, sono cambiate le cose? È un suc, sindaco. Allora, problemi di linea questa mattina, è in auto, rassegniamoci. Giovanni, posso dire un'altra cosa sui biglietti? Sì. E lo scandalo dei biglietti non è tanto quanto credo, è sicuramente questo, il fatto delle percentuali che prende il privato o il pubblico, e lì ci devono essere delle regole chiare, ma soprattutto il costo dei biglietti, che è troppo basso. Non possiamo fare troppo i paragoni basso con l'estero soltanto quando vogliamo, cioè all'estero anche i musei sono chiusi il 1° maggio o il primo gennaio e quant'altro, ma facciamo anche i paragoni sul resto. La Torre di Londra, che non è paragonabile rispetto all'età del Colosseo, no? Però rappresenta la cultura indubbiamente di Londra, no? Indubbiamente, e quindi? Costa 3 volte più del Colosseo. Allora, il costo di un museo incide pochissimo sul costo del viaggio in Italia o addirittura in Europa, perché viene da oltreoceano. Queste sono cose che vanno riflettute. Allora, Giovanni dalla provincia di Asti. Buongiorno. Mi pare di capire che anche lei sia d'accordo. Ma sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso, io volevo citare l'esperienza inglese. Io sono un architetto, mi occupo di restauro di monumenti, di beni vincolati. E in Inghilterra c'è questa bellissima esperienza del National Trust, che è sostanzialmente una fondazione privata che è proprietaria di circa 300 immobili nel Regno Unito. La grande forza di questo trust è che è aperto grazie a 70.000 volontari. Cioè è il volontariato che permette l'apertura dei beni culturali. Inoltre in Inghilterra lei immagina statali, schiere di volontari davanti alla Reggia di Caserta o al Colosseo? Non ho capito, scusi. Dico, lei immagina schiere di volontari davanti alla Reggia di Caserta o al Colosseo? Io penso che la via per uscire da questo problema dei beni culturali, ma in generale dal problema dell'Italia, è quello, perché gli italiani devono capire che si devono rimboccare le maniche e in certi settori partecipare di prima persona, ma in qualunque cosa, non solo nel aspetto culturale. Faccio un esempio, io mi occupo anche di programmazione di trasporto pubblico ed è un disastro a tutti i livelli, perché il cittadino non riesce a esprimere la propria volontà nella gestione quotidiana, e così pure in tutti gli altri settori. Allora, Massimo Cacciari, pare che ai nostri ascoltatori privati piacciono. Sono, ci sono molti musei italiani, soprattutto piccoli musei in piccoli centri, che tengono aperto, riescono a tenere aperto qualche giorno, eccetera, grazie al volontariato. Ci sono Dopodiché è chiaro che le sovrintendenze sono molto preoccupate di usare a fondo questo strumento, perché poi sono responsabili loro di qualsiasi cosa avvenga. Poi, insomma, diciamo, non si può quindi tenere in piedi un sistema paese sul volontariato. No, appunto, no, ma però in molti casi, io sono d'accordo, in molti casi il volontariato potrebbe essere per piccoli centri e piccoli musei una importantissima risorsa. Ma più in generale, anche per creare tutto quell'indotto che dicevamo, poi ci sono delle esperienze straordinarie, soprattutto in certe zone del Mezzogiorno, in cui aree archeologiche sono state date da gestire dopo opportune gare, ben controllate, eccetera, eccetera, sono state date da gestire a cooperative di giovani molto preparati, che sanno le lingue, che sanno un po' di storia dell'arte, e tengono aperto loro, dandogli la possibilità ovviamente anche di aprire un bookshop, un piccolo centro di ristorazione, eccetera, eccetera, e funzionano benissimo. Non è possibile pensare che in Italia, col patrimonio che abbiamo, con il numero sconfinato di musei piccoli, grandi e di aree archeologiche, tutto possa essere gestito dal pubblico direttamente. Sono deliri da socialismo reale, sono deliri. E quindi anche da questo punto di vista le burocrazie, le sovrintendenze, eccetera, devono darsi una mossa. Non è possibile pensare di poter gestire tutto questo patrimonio e tenerlo aperto e renderlo usufruibile soltanto attraverso intervento pubblico, anche se fossimo stramiliardari come Stato. Non ce la faremmo, mai. Col patrimonio che abbiamo non ce la faremmo. Parlavamo di costi di biglietti. Antonia da Roma, buongiorno. A lei cos'è successo? Buongiorno, allora volevo dirle la mia esperienza, perché io sono di Roma. È venuta in questi giorni a trovare una mia amica da Vicenza e quindi ieri siamo andati a Palazzo Barberini per visitare Palazzo Barberini, che è su tre piani, e si è potuto visitare soltanto il piano intermedio, gli altri due piani erano chiusi per mancanza di personale, se non che il prezzo era intero. Per esempio, potrebbe essere una cosa intelligente non far ricadere sull'utente la chiusura di alcune zone. Salvatore Carruba, che ne pensi degli spunti che stanno venendo fuori? Vorrei riprendere il tema del volontariato. Il National Trust in Italia esiste ed è il FAI, che funziona esattamente come il National Trust. Non solo, il volontariato è presente anche nell'operazione che fa il Touring Club, i cui iscritti fanno da volontari per tenere aperti dei musei anche in grandi città. Il problema è che questi esperimenti, soprattutto il secondo, si scontra contro la volontà dei sindacati, che non vogliono assolutamente che i volontari entrino nei musei, perché ritengono che tutti i custodi museali debbano essere del personale statale regolarmente assunto, eccetera, eccetera. Oggi aprire un grande museo è all'estero, come ricordava il sindaco Cacciari, mi pare tutti i grandi musei hanno i volontari. Aprire un grande museo al volontariato è impossibile, forse in qualche vale in Italia per i piccoli centri, come ci diceva Cacciari prima. In qualche piccolo centro si riesce, ma se io per esempio da assessore ci ho provato nei musei milanesi, che sono dei grandi musei, sono stato stoppato dopo 7 minuti, proprio perché i sindacati non intendevano assolutamente che nei musei entrassero i volontari e sovvertissero quelle che sono le regole. Seconda osservazione. Sono d'accordissimo con quello che diceva il professor Cacciari e molti altri ascoltatori. Purtroppo non dobbiamo trascurare il fatto che questa cultura favorevole al privato è molto difficile da far entrare nella nostra politica. Parlavamo prima e ripetiamolo, il privato con delle regole, controllato e tutto quello che serve. Quello è ovvio. In questi mesi ha lavorato una commissione per il ministro Brai per rivedere l'organizzazione del museo, del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Mi pare che la tendenza di fondo che emerge da questi lavori, la commissione ha finito i lavori, la relazione non è stata ancora pubblicata, ma insomma sono state comunicate alcune conclusioni, non vadano nella direzione di aprire maggiormente i privati, ma anzi vadano nella direzione di rafforzare e ribadire quello che è il ruolo centralistico dello Stato su tutti i beni culturali. E purtroppo con quella impostazione i musei e le aree archeologiche nazionali faranno la fine che stanno facendo, di incuria, di chiusura parziale, che fa apparire anche eccessivo il prezzo dei biglietti rispetto a quello che uno riesce a vedere, eccetera, eccetera. Secondo te qual è l'emergenza maggiore in questo momento? Si parla di Pompei e ne abbiamo parlato veramente tantissimo, si parla di Caserta, però forse ci sono anche altre situazioni che andrebbero tenute sott'occhio. per ragioni di campanile dico che andrebbe tenuta sott'occhio la situazione di Brera. Brera, un grande museo milanese. Che è stato tra quelli chiusi anche qui a Capodanno, ma qui fortunatamente la polemica non c'è stata. No, non c'è stata, grande museo milanese. Perché non c'è stata? Perché Brera purtroppo ha un numero di visitatori infinitamente inferiore a quello che è il suo potenziale, perché Brera dovrebbe avere molto di più dei suoi 200-250 mila visitatori all'anno. E invece, e quindi c'è un lungo progetto che parte 30 anni fa di ingrandire questo museo, eccetera, che fino adesso è rimasto lettera morta. C'è stato un piccolo passo avanti negli ultimi mesi, grazie soprattutto al ministro Ornaghi, ma ancora il progetto Grande Brera non si realizza. Quello io credo che anche in vista dell'Expo, per far capire a chi verrà a Milano che Milano è anche una grande città d'arte e di cultura, forse bisognerebbe pensarci. La stessa domanda, Massimo Cacciari, la prima priorità, se ne dovesse indicare una con una bacchetta magica? Beh, insomma, non so. Troppe? La priorità probabilmente è Pompei, perché veramente la situazione lì è drammatica, tragica. Poi ci sono anche dei segni importanti, perché appunto la Grande Brera stenta a decollare, ma siamo arrivati in porto con le grandi gallerie dell'Accademia. Una settimana fa abbiamo inaugurato tutto il grande restauro dell'Accademia, il recupero del cortile Palladiano, eccetera, 6.000 metri quadri per l'esposizione, un progetto di Tobias qualche Scarpa, segnale c'è? Insomma, questi sono segnali anche importanti, ecco, voglio dire, si può fare. Quello su cui siamo tragicamente indietro è sulle politiche, ancora una volta in questo paese, su ancora sul sistema che favoriscono la presenza dei privati, che favoriscono la presenza del volontariato, eccetera eccetera, e sull'integrazione della questione della conservazione del patrimonio a tutto il settore industriale del turismo. Industriale del turismo, è questo il tema che è venuto fuori forte in questa discussione. Un sistema paese è un grande bacino a cui attingere, speriamo, in questo 2014. Grazie Massimo Cacciari, grazie a Salvatore Carruba, grazie anche al sindaco di Caserta che è stato con noi nella prima parte. 24 mattino non finisce qui, c'è il giornale radio, parleremo d'altro, parleremo ancora di sistema paese. 24 mattino. Ed eccoci ancora qui, ancora buona giornata, ancora buon 6 gennaio da Anna Migliorati. Fare sistema paese, ne abbiamo parlato prima a proposito del nostro grande patrimonio culturale, fare sistema per ripartire, ma come in questo 2014? Un'intervista questa mattina sul Repubblica del ministro Saccomanni dice: nel 2014 sarà l'anno della svolta, caleranno le tasse e sarà l'anno della ripresa. La ripresa si consoliderà, le famiglie e imprese pagheranno meno tasse, così dice questa mattina Saccomanni. Il lavoro è la principale delle emergenze, il problema della disoccupazione lo si risolve con la crescita economica che aumenta la domanda di lavoro. Questo mentre c'è, l'avete sentito anche nei nostri giornali radio, ci sono i sindacati, CGIL in testa, che chiedono 1,5 miliardi per creare lavoro. Sono le richieste della leader della CGIL Susanna Camusso, col dibattito che si riaccende con forza dopo il cosiddetto Job Act del neo segretario del PD Matteo Renzi. Insomma, ripartire da dove? Dal coraggio degli italiani, ha detto nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Una delle autrici delle lettere citate dal presidente della Repubblica è Veronica Fiorillo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ripartire dal coraggio degli italiani. La frase che il presidente Napolitano sua ha citato è stata molto forte. Io credo ancora nell'Italia, l'Italia crede ancora in me. Innanzitutto, dopo il discorso di fine anno, qualcuno l'ha contattata? No, nessuno, ma insomma è anche giusto così, non è che basta tutto questo per poter ottenere un lavoro, ecco. Il coraggio degli italiani, secondo lei serve il coraggio dei singoli per ripartire? Ma sicuramente il coraggio non fa male, ecco, una marcia in più che fa sempre bene nella vita. Immaginiamo tutto questo moltiplicato per tutti quanti siamo, sicuramente è un'energia potente, ecco. Poi io sono un'inguaribile romantica, quindi vivo forse in una realtà un po' utopistica, ecco, però penso si possano cambiare le cose, ecco. Ripartendo dal basso o aspettando dall'alto? Ma se si facesse da entrambe le parti, io credo che nella mia totale ignoranza, ecco, semplicità, che sì, si possa partire da entrambe le parti, innanzitutto i politici chiaramente dalla loro parte, ma anche gli italiani che incominciano appunto a farsi sentire, anche nel piccolo, perché io ho visto, non me l'aspettavo chiaramente tutto questo, è bastato lanciare un sassolino e è arrivato. Forse se incominciassimo tutti a far sentire le nostre voci, non che cambierebbe per forza qualcosa, però almeno possiamo dire di averci provato. Ecco. Eppure ci sono dei dati, oltre che delle storie, che il Presidente della Repubblica ha citato nel suo discorso. Ci ha detto anche in un 2013, come quello che è stato di profonda crisi, c'è stato chi ha provato ad avere coraggio. Sono le start-up, le nuove iniziative che hanno visto in testa soprattutto giovani e stranieri. È davvero così? Saluto anche il nostro prossimo ospite, Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. È vero che gli italiani comunque ci provano? E certo che ci provano, ma è una storia antica quella che gli italiani credono nell'impresa e credono nell'intraprendere e sono consapevoli delle grandi potenzialità di questo nostro paese. In questo anno terribile che abbiamo appena concluso, spero che la Befana ci porti qualche notizia in più, io ne sono assolutamente vogliamo essere, convinto. Provare almeno ancora oggi ad essere positivi, poi da domani torniamo coi piedi per terra. Certamente, ma in questi 9 mesi di questo 2013 così difficile, circa 100.000 giovani hanno avuto voglia, il coraggio, la forza, l'intelligenza, dico io, di incominciare ad intraprendere per dare una risposta a se stessi, per trovare magari una delle tante potenzialità che questo nostro paese ha ancora nel suo seno e probabilmente riuscirà a dare grazie ai giovani, alle donne e anche agli immigrati, non dimentichiamoci questa figura importante nell'ambito dell'imprenditorialità in questo momento del nostro paese, ragioni per poter in qualche modo dare di nuovo un corso positivo alla storia di questo nostro paese. Un paese che, lo ricordo sempre e mi piace farlo, che ha un'impresa ogni 10 abitanti, sono 6 milioni in questo momento di imprese iscritte al registro delle Camere di Commercio italiane e su 60 milioni è facile fare una veloce divisione. Vuol dire che ogni 10 abitanti nel nostro paese c'è un'impresa. Quindi il coraggio di intraprendere, la voglia, il sogno magari di realizzare qualcosa di se stessi a queste nuove generazioni, che tra l'altro sono molto più acculturate delle nostre perché hanno fatto un percorso anche di acculturazione diverso da quello di tanti anni fa nella quale noi ci cimentavamo, ecco, credo che siano uno dei preludi sui quali lavorare per il nostro futuro, per dare a loro probabilmente un paese più moderno, quindi più digitalizzato, e qui siamo ancora un po' indietro, ma probabilmente anche il sistema delle camere riuscirà a dare un aiuto in questa direzione. E magari un po' più semplice? Più efficiente, più semplice, beh, questo è uno dei grandi mali. Allora, 349-238-6666, si riparte in questo 2014 dal coraggio degli italiani, aspettiamo naturalmente anche i vostri commenti, dal coraggio degli italiani e dei nuovi italiani, come ci diceva Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camere. Uno di questi è, non so se si riferisca così, è Ani El Mallà. Buongiorno. Buongiorno e buon anno a tutti. Che italiano lo è ormai perché da tanti anni nel nostro paese, ma che la sua avventura l'ha cominciata invece dall'Egitto. Ce la racconta? Bene, io sono arrivato nel lontano 1981, oltre 30 anni in Italia, e ho fatto un'attività che non le faceva nessuno a tutt'oggi, in poche parole, a vendere il ghiaccio. Vendere il ghiaccio, sì. Un mestiere che pensavamo dimenticato, E invece sì, lo era. E invece ci ha fatto un business. Allora, io leggo: i suoi sono i cubetti nei cocktail serviti durante la settimana della moda a Milano, le bibite ai concerti e ai grandi eventi, perché comunque prendiamo la bibita ma dentro c'è anche quel cubetto di ghiaccio. Lo vende lei. L'anno scorso ha fatturato 300.000 euro? Oltre 300.000 euro l'anno scorso, quest'anno non ancora abbiamo chiuso l'ultimo trimestre, quindi la previsione siamo vicino al 400.000 euro. E quindi è andata bene per lei questo 2013? È andata bene fino a ieri, ecco. E poi nella previsione, nel fare il grande passo diciamo nella prossimità dell'Expo 2015, come avevamo già progettato, il nuovo impianto che produce. E allora, nuova idea, ha iniziato questa attività, va bene, tutto a posto, le è venuta una nuova idea, allargarsi. Sì. Cosa le è successo in Italia? È andato dalle banche, ha chiesto un prestito e? Sì, e non ancora abbiamo ricevuto nessuna risposta da oltre 6 mesi da questa parte, né positiva né negativa. Nonostante l'intervento della cooperativa di garanzia pratica da esaminare, ha fatto sì. La stessa cosa nel suo paese d'origine, l'Egitto. Esatto. E attenzione, non parliamo di Stati Uniti, di Gran Bretagna, di Germania, parliamo del Cairo. Cosa sì. Le hanno risposto al Cairo? Risposta positiva, in tempi rapidi, e i soldi li ha avuti, li ha trasferiti addirittura sul conto qui in Italia, come è stato richiesto dalla banca. Imprenditore di successo in Italia, il finanziamento arriva dal Cairo. Esatto? Sì, esatto. Allora, Dardanello, che effetto le fa però una storia così? Va bene il coraggio degli italiani, ma poi? Beh, assolutamente è inconcepibile che un imprenditore debba trovare dal suo paese le motivazioni economiche per poter raggiungere un obiettivo, ma io credo che queste disfunzioni in questo momento purtroppo caratterizzano anche molte di queste storie delle imprese, dei giovani e di coloro che probabilmente non hanno un rating così chiamato sufficientemente per poter dare alle banche quella garanzia, quella certezza di cui c'è bisogno. Però io credo che il signore parlava anche delle cooperative di garanzia, questo straordinario strumento che in questo momento serve a dare delle risposte ai piccoli imprenditori è una delle ricchezze di questo nostro paese. Mi stupisco che questa cooperativa di garanzia non abbia avuto la capacità di dare una risposta a questo imprenditore, perché questi tempi non sono concepibili oggi, proprio anche all'interno di questo strutturato di garanzia che oggi caratterizza in modo particolare, io credo, tutti i finanziamenti alle piccole e medie imprese italiane. Veronica Fiorillo, ci andrebbe all'estero per cominciare? Ma sinceramente è una domanda che continuano a farmi tutti, io continuo a rispondere nello stesso modo, non capisco perché me ne devo andare io dal paese che amo, in cui sono cresciuta, in cui vorrei poter continuare a stare. Se ne vada un po' chi non è in grado di poter gestire in modo adeguato il paese, ecco, un po' come se mi comprassi una casa e ci vivo bene, ci pago tutto, la sistemo tutto, poi magari l'amministratore non è bravo a fare il suo lavoro e io devo comprarmi un'altra casa. Sembra un po' un controsenso. E Ani El Mallà, è più Milano o il Cairo a questo punto il suo punto di riferimento e la sua casa? Non... Chi crede più in lei? Ma guardi, io penso che ostacoli ci sono sempre stati e ci saranno sempre, e nessuno le può negare, però non a questo livello. Il coraggio a noi piccoli imprenditori ce l'abbiamo sempre avuto e ce l'avremo sempre. Purtroppo manca il coraggio alla classe dirigente per cambiare, perché ci vuole un cambiamento radicale e veloce, perché non c'è più tempo da perdere. È il momento di atterrare sul pianeta Terra, toccare la realtà con la mano, per vedere come vivono gli imprenditori, come vivono la gente, e non a vedere la luce in fondo al tunnel, che non so di quale tunnel stiamo parlando, ci stiamo cercando di ampliare le attività, ci troviamo addirittura ostacolati. Vorrei sottolineare anche che la cooperativa di garanzia non è che le fa per amicizia o per niente, le fa in cambio di un tot percentuale dal prestito a fondo perduto. Anche questo regolamento secondo me va cambiato, perché così ostacolano ancora di più gli imprenditori, è inaccettabile secondo me dal mio punto di vista. 800 24 00 24, si riparte in questo 2014 dal coraggio degli italiani. Dardanello, secondo lei questo coraggio degli italiani c'è? Esiste? Ma esiste da sempre, sono 150 anni dalla nostra storia che dimostra che di coraggio gli italiani hanno avuto tantissimo. O ricordiamoci solo i 60 anni della nostra storia recente, quello che eravamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, non ci fosse stato uno straordinario coraggio, questa straordinaria capacità della nostra gente, non saremmo diventati una delle prime economie del mondo. E la domanda da $1 milione, però, basta il coraggio degli italiani? Ma io penso di sì, basta il coraggio degli italiani aggregato alle altri grandi patrimoni che noi abbiamo. Un territorio che è unico al mondo, ancora da scoprire nella sua complessità, nella sua totalità. E poi dopo ricordiamoci bene che ogni giorno le merci che noi produciamo, figli del coraggio, dell'innovazione, della qualità dei nostri italiani, conquistano i mercati del mondo. Quindi abbiniamo la qualità delle nostre cose, valorizziamo meglio questo nostro territorio. Io credo che per le prossime generazioni ve ne sarà, e ve ne sarà ancora a go-go. Ecco, non soltanto poco coraggio, ci va coraggio, ma anche la consapevolezza di vivere in un paese che ha tante difficoltà in questo momento, ha tanti problemi da risolvere, assolutamente sì, ma che può offrire anche ai giovani in modo particolare straordinarie opportunità per il futuro. Ci crede nella promessa di Saccomanni, come titola questa mattina La Repubblica, nel 2014 ripartiremo e caleranno le tasse? Beh, io non vorrei che fosse la solita promessa del Ministro dell'Economia, che non può che dire queste cose, perché altrimenti la sua credibilità viene un po' meno, ma io mi auguro di sì. Io credo che all'orizzonte ci sono dei dati, delle notizie, di questo spread che finalmente è sceso sotto la soglia dei 200, questo la dice tutta della credibilità che il nostro Paese sta acquisendo sul mercato internazionale, e dai mercati internazionali che poi dopo si ribalta all'interno del nostro Paese le nuove potenzialità. Se vi sono queste condizioni che io intravedo, io credo che nel 2014 potremo di nuovo iniziare a riprendere un cammino fatto di tanti piccoli e micro imprenditori, che come la nostra storia ci insegna. Veronica Fiorillo, cosa chiede a questa Italia? Lei ha scritto nella lettera al Presidente della Repubblica: io ancora credo nell'Italia, l'Italia crede ancora in me. Cosa dovrebbe fare per credere in lei? Mi ha fatto anche a me una domanda da $1 milione, ma probabilmente più che semplicemente dare lavoro a tutti dovrebbe fare lavoro, creare lavoro per tutti, sia per noi giovani sia per anche chi già l'ha perso, e chiaramente questo è possibile solamente, come diceva appunto l'imprenditore, che devono scendere sul pianeta Terra, devono incominciare i politici a toccare veramente i problemi con mano, a vedere che cosa sta veramente succedendo nel paese in cui in teoria dovrebbero governare. Questo è possibile solo... Problemi che forse sta toccando Fabio, che ci ha chiamato dalla provincia di Milano. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sì, io volevo raccontare anche la mia esperienza di imprenditore, nel senso che ho costituito una società alla fine del 2011 e quest'anno a maggio siamo partiti con questa attività di ristorazione a Milano, e già da più di un anno abbiamo chiesto anche un aiuto a Fillombarda, quindi un'istituzione della regione Lombardia, per finanziare l'inizio di questa attività attraverso un fondo specifico per le start-up. E spiace constatare che in realtà i tempi sono tempi biblici. Innanzitutto la liquidazione... Forse deve andare al Cairo come sì, il nostro ospite. È diverso a Napoli, Giovanni, dalla provincia di Napoli. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Diciamo che io da piccolo imprenditore sento spesso degli interventi anche di specialisti che continuamente dicono che bisogna eliminare la spesa per l'assunzione di varie persone, o comunque ci sono anche grandi organizzazioni come CGL, CISL, UIL che giustamente danno grandi apporto ai lavoratori, ma noi imprenditori piccoli, io sono un piccolissimo imprenditore che sono una piccola realtà campana da un anno e mezzo, per risolvere il problema dello Stato che continuamente crea dei disagi immensi a noi piccoli, acarici imprenditori, sono costretto a fare io faccio tutto io, sono costretto a fare io il commercialista, io il venditore, io colui che fa l'assistenza, io colui che va dal cliente, io colui che scarica il furgone. Cioè non si può assumere una persona, ma non è il problema di dire le tasse che si pagano per assumere una persona, lo Stato te le abolisce, te le dimezza. Cioè il problema poi a questa persona a fine mese, ma chi la paga se non si vende? Cioè, e in Sicilia, ci scrive un altro ascoltatore, devo avviare un'azienda vitivinicola, non trovo il bandolo per iniziare qui in Sicilia. Ani El Mallà, cosa suggerisce a questi italiani? Io suggerisco una cosa, che io vedo l'Italia con una bella signora con un vestito abbastanza vecchio che non si presenta più bene. E quel vestito lì assolutamente va cambiato. L'Italia ha bisogno di un vestito nuovo, così si presenta meglio, come si è sempre presentata. L'Italia ce la farà e ce la deve fare, però senza l'ostacolo della classe dirigente. Va cambiato il regolamento, bisogna cambiare, non c'è niente da fare, il più presto possibile, se vogliamo che si rialziamo ancora in piedi. Dardanello, la classe politica ha queste storie in mente quando parla di emergenza lavoro? No, innanzitutto vorrei però riferirmi ancora a cosa diceva adesso al nostro imprenditore egiziano trapiantato in Italia. Io dico, un imprenditore che nel giro di un anno così terribile ha aumentato del 33% la propria attività, io dico, come può lamentarsi di questo nostro paese? Perché credo che ci sia. Beh, lui si riferiva alla parte, diciamo così, della sua storia, in cui dice però a finanziarmi. Sì, dice, è una storia di un paese che non funziona, che non va, ma se gli è permesso di addirittura in questo anno orribile di incrementare del 33% il proprio fatturato, io credo che questo sia un paese che ha enormi opportunità per chi ha anche delle intelligenze. Però il finanziamento è arrivato dal Cairo, non dall'Italia. Ma questo è merito suo sicuramente, di aver saputo innestarsi in un tessuto nel quale poteva la sua idea e le sue genialità trovare riscontro. Che poi questo paese ha bisogno di essere cambiato, ne siamo tutti estremamente convinti. La classe politica probabilmente a volte è lontana dai problemi della piccola impresa, probabilmente guarda solo i grandi processi internazionali, solo i grandi processi dell'imprenditoria, quella che va per la maggiore, così nell'immagine collettiva del paese, e ogni tanto ci si dimentica che c'è un esercito, un oceano di piccole imprenditorialità sulle quali noi abbiamo costruito tutti questi anni della nostra storia. Probabilmente calandosi un po' di più in questi problemi magari semplici, probabilmente di ogni giorno. Sono quelli reali, ma ogni tanto ci dimentichiamo dei problemi reali del nostro paese e invece guardiamo soltanto, e fate anche soltanto voi che fate comunicazione, i grandi titoli sui grandi processi e sui grandi temi, dimenticandoci invece che c'è un esercito di 6 milioni di imprese. Lei pensi cosa vuol dire? Non c'è nessun paese al mondo che ha un'imprenditoria così polverizzata come la nostra, che ha bisogno di problemi e anche di soluzioni di piccoli problemi, quelli che purtroppo oggi la burocrazia impedisce, credo. E siamo però qui a parlarne anche in questo 6 gennaio, proprio perché dal coraggio, dalla volontà, come scrive, ci scrive invece qualche ascoltatore, ma anche da tutte queste semplici regole forse bisognerebbe ripartire. Allora, grazie Ferruccio Dardanello, presidente Union Camere, buona giornata, buon 2014 a voi. Grazie anche a Veronica Fiorillo, aspettando una risposta a questo punto da questo 2014 anche per lei, e per capire un po' cosa invece vuole da questa Italia. Grazie e buona giornata. Grazie mille. Buona giornata anche Ani El Mallà, che è stato con noi questa mattina, che tornerà a vendere il ghiaccio a Milano. Buona giornata, buon anno a tutta l'Italia. Buona giornata e buon anno a vendere il ghiaccio a Milano con i soldi che arrivano dal Cairo. Anche da qui si riparte in queste 2014, la volontà, il coraggio degli italiani, come l'ha definito il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, nel lavoro al centro, da domani, subito in questo 2014 ripartirà sicuramente il dibattito politico. Noi continueremo a seguirlo, perché da domani ripartirà anche nel suo orario consueto 24 mattino, tornerà a quest'ora anche Giovanni Minoli con Mix 24. Chiudiamo in qualche modo anche noi questa parentesi festiva, naturalmente ancora con l'augurio di un buon 2014. pubblici. Grazie in regia Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli che ha curato questa puntata con Elisabetta Fusconi. Buon 2014, ancora una buona giornata anche da Anna Migliorati.